24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:22 minuti, eccoci cari ascoltatori, ben ritrovati con 24 mattino in diretta fino alle 9. Nel nostro sondaggio oggi parliamo del maltempo che ha flagellato davvero il nord, ma anche il centro-sud Italia, soprattutto però il Veneto messo in ginocchio. E vi chiediamo, secondo voi si poteva evitare? Ci sono le classiche polemiche, è una pioggia abbondante oppure mancata prevenzione, problemi mai affrontati in Italia che hanno portato a questa situazione? Votate su radio24.it, ne parleremo poi con i protagonisti, vedremo qual è la situazione alle 8:30. Ed ora, come di consueto, andiamo alla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Giovedì 4 novembre, la frase, il titolo che trovate molto gettonato sui giornali è la frase di Obama. Obama sconfitto, colpa mia. È la scelta di apertura di molti quotidiani, l'analisi delle elezioni di midterm il giorno dopo, quando si è profilata più netta la sconfitta dei democratici che hanno perso la Camera. Mentre D'Alema convoca Berlusconi per il Corriere, così come il Messaggero, il Copasir chiama il Premier, quindi la vicenda Ruby e quant'altro. L'apertura del Sole 24 Ore, la sfida delle aziende globali, Banca Mondiale, Italia in coda nella classifica per fare impresa. La voce è un po' così oggi, ma d'altronde bisognava celebrare Pippo Inzaghi ieri sera. E allora, io vorrei iniziare però dalla segnalazione che avete sentito, viene dal Festival di Sanremo, ieri presentato da Gianni Morandi, con le polemiche. Ci può essere un Sanremo senza le polemiche? Quest'anno le polemiche sono legate al fatto che per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia si canteranno due canzoni, Bella Ciao, che insomma un po' l'inno dei partigiani e dell'Unità d'Italia, nel senso dopo la Seconda Guerra Mondiale, e Giovinezza. Giovinezza invece è una canzone che nacque come canzone della goliardia toscana dai primi del Novecento, ma certo è considerato anche uno degli inni del fascismo. E allora, festival nostalgico per Libero, polemica a Sanremo, riesumate Bella Ciao e Giovinezza, Repubblica ci dedica due pagine, a Sanremo Bella Ciao e Giovinezza, bufera sul festival bipartisan. Ma io da cosa voglio partire? Dal buongiorno di Massimo Gramellini, voglio leggervelo oggi perché è davvero, secondo me, spassoso, sempre a trovare ovviamente la copia della Stampa. Eccolo qui, Giovinezza Ciao, davvero fosforica l'idea concepita dal Festival di Sanremo per i 150 anni dell'Italia Unita, eseguire sul palco Bella Ciao e Giovinezza, rispettivamente colonna sonora della Resistenza e dei Pestaggi squadristi. Erano italiani anche quelli, no? Come l'olio d'oliva e l'olio di ricino, la Costituzione e le leggi razziali. Ah, le forzature della par condicio. Perché le due canzoni non sono proprio la stessa cosa. Bella Ciao è la torva nenia dei partigiani rossi ed evoca Cosacchi a San Pietro e Santori ad Anno Zero. Invece Giovinezza trasuda ottimismo spensierato, ti mette subito voglia di afferrare un manganello e scendere in strada a sgranchirti un po'. Come dite, organizzatori del Festival dell'Ipocrisia? Giovinezza era l'inno della goliardia toscana del primo Novecento? Ma certo, è per questo che è famosa, è per questo che volete trasmetterla in Eurovisione, per rendere omaggio a quel fenomeno ingiustamente sottovalutato che fu la goliardia toscana del primo Novecento. E Faccetta Nera, allora, era lo slogan di una crema abbronzante? Peccato che tanti italiani saliti in montagna o internati in Germania dopo l'8 settembre non siano più qui a commentare questo gemellaggio ardito in ogni senso. Vi avrebbero spiegato la differenza tra Bella Ciao e Giovinezza meglio di me, anche se con toni meno ilari. Provo a condensare il loro pensiero. Il fascismo è stato un regime dittatoriale precipitato in catastrofe. Non può essere banalizzato in questo modo, in nessun modo. Vi sembrerà incredibile, ma non tutto fa spettacolo nella vita. Questo è Massimo Gramellini oggi sulla Stampa, il suo buongiorno. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo e poi ripartiamo dalla politica italiana. In primo piano. La politica italiana è inevitabilmente ancora ancorata a tutte le vicende di cui si parla in questi giorni, vale a dire le vicende che sono iniziate con Ruby e poi le testimonianze di una nuova escort, tutte ancora ovviamente da verificare, ma che ancora oggi prendono ampio spazio sui giornali. La polemica intanto è per la convocazione del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, il COPASI, di cui presidente Massimo D'Alema, a Berlusconi. D'Alema convoca Berlusconi, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Più controlli e cambio degli uomini di scorta. Ieri è stato il Fatto Quotidiano a lanciare questa denuncia con alcune testimonianze raccolte tra gli uomini della scorta. Oggi il Fatto Quotidiano ci ritorna dicendo: molti uomini delle scorte, a pagina 3 del Fatto, è un'offesa per chi è morto. Ormai scortiamo e piantoniamo hotel e centri massaggi, facciamo quello che il servizio richiede. Quando si tratta di aspettare per ore fuori da una camera di albergo ci sentiamo un po' dequalificati. Ecco i poliziotti romani, molte testimonianze sono ovviamente anonime, virgolettate, altre invece sono dei sindacati. Per esempio il segretario generale del SIAP, Giuseppe Tiani: se è vero quello che leggo, il degrado che hanno raggiunto le istituzioni che noi dobbiamo servire è tale da scoraggiare. Tutto questo sfilaccia il credo degli uomini rispetto al proprio dovere. E poi anche Giorgio Innocenzi del CONSAP: una scorta in Italia ormai non si nega a nessuno. Insomma, c'è questa polemica e il COPASIR vuole vederci chiaro. Massimo D'Alema ha convocato appunto Berlusconi, anche se Quagliariello, che è un senatore di Forza Italia, del PDL, e fa parte del COPASIR, un'intervista al Corriere della Sera, pagina 2, dice: così il comitato è uno strumento per fare opposizione. La solidarietà che D'Alema ha dato ai carabinieri della scorta del Premier è inopportuna, dice il senatore Quagliariello. È anche offensiva perché si riferisce a un fatto mai accaduto e che sarà smentito. Ciò che si dice all'interno del comitato comunque non deve uscire per vie ufficiali, e ancora più grave è quando, come è successo ora, le notizie escono in maniera forzata e imprecisa, che genera una situazione di irritualità evidente. Insomma, le polemiche per questa convocazione. Polemiche ci sono anche per la presenza annunciata lunedì di Berlusconi ad inaugurare il Forum delle Famiglie, un importante avvenimento coordinato dal sottosegretario Giovanardi, che sarà nostro ospite per l'intervista delle 8:20, perché il coordinatore del Forum delle Famiglie, il sociologo Belletti, ha detto: venga Berlusconi ma si parli solo di famiglia. E qualcuno ha detto: ma come, insomma, con uno stile di vita che certo non porta a pensare alla famiglia quando si associa all'immagine del Presidente del Consiglio, la famiglia tradizionale non deve venire. Ecco, allora, questa polemica, la difesa dei cattolici e il popolo della libertà non è un santo ma contano i fatti, racconta il Corriere della Sera. Anche Maurizio Lupi, che dice, il vicepresidente della Camera: io ho un modello di vita diverso da lui, però evitiamo di fare il moralismo. Giovanardi dice: il suo arrivo sarà un valore aggiunto, lo ascolteremo poi. Giovanardi, segnalo anche a questo proposito un'intervista a Emilio Fede sul Fatto Quotidiano, lo intervista Lorenzo Galeazzi. Parla di queste feste, dice: guardate, non c'era nessuna marijuana, come qualcuno dice, al massimo la trasgressione di Berlusconi è bere un Montenegro con ghiaccio, mentre le ragazze bevono tutte Coca-Cola Zero. Da ex giocatore d'azzardo, dice Emilio Fede, sono pronto a scommettere tutti i miei risparmi sul fatto che le indagini non porteranno a nulla. E poi, ecco, insomma, l'ultima battuta: il presidente è single, da quando ha perso la madre la sua vita si è molto rattristata, e se una sera alla settimana vuole svagarsi non ci vedo nulla di male. Poi conclude Emilio Fede: ora però devo andare in onda, altrimenti mi licenzia. Insomma, sempre con la sua solita straordinaria ironia. Questo che ne pensate, è così. Berlusconi ospite sgradito al Forum delle Famiglie, anche per il Fatto Quotidiano. Insomma, questa polemica dà spunto invece a Vittorio Feltri per scrivere l'editoriale di prima pagina, molto duro: i moralisti del bordello Italia. Questo è il titolo di apertura del giornale in prima pagina, e Vittorio Feltri dice: autorevoli commentatori sostengono che il Presidente del Consiglio debba avere un comportamento irreprensibile, si dimenticano che anche i preti hanno i loro bei guai con la pedofilia. E vabbè, sorvoliamo. Feltri dice: poi guardate, Repubblica fa la morale, e poi sul sito internet di Repubblica compaiono questi annunci: donna spagnola Bolzano irresistibile, sensuale, trasgressiva; donna italiana Livorno irresistibile, dolce, elegante; bambola sensuale 24enne argentina dolcissima; bella bambolona coccolona, ambiente riservato. Capito? Dice Feltri. E ancora: Vendola, che si è arrabbiato perché è omosessuale dopo la battuta di Berlusconi, in una memorabile intervista a Repubblica, senza vergogna disse: bisognava concedere ai bambini il diritto di avere una loro sessualità e ad avere rapporti fra loro e con adulti. Insomma, scrive Feltri, suppone sia cosa giusta fare propaganda della pedofilia. Questi sono i moralisti con cui abbiamo a che fare. E ancora il presidente del Consiglio delle Famiglie, che ha detto: la presenza di Berlusconi non è giudicata come un segno di attenzione al governo della famiglia, e ha concluso: se però Berlusconi sarà capace di proteggere il valore della famiglia, sarà sostenuto da tutti noi. Capito, dice ancora Feltri, la politica del cavaliere sta bene a questo professor Belletti, ma il premier in persona gli fa schifo. Insomma, moralismo o non moralismo, parla e sicuramente farà discutere, perché quando parla fa sempre discutere, il cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi. Lo fa in un'intervista a Repubblica, zitta Dazzi: l'Italia di oggi è malata come lo era Milano ai tempi di San Carlo e della peste. Ogni giorno, leggendo i giornali, si è portati a pensare che si stia sprofondando sempre più in basso, in moralità dilagante a tutti i livelli della società. Così il cardinale Tettamanzi, il cardinale di Milano, dice: leggendo i giornali, che penso del Presidente del Consiglio? Delle vicende private, il problema non è quello che provo io. Il problema più grave lo vivono i genitori, che devono spiegare cosa sta succedendo ai propri figli, alle figlie che hanno la stessa età di quelle che si vedono in foto sui quotidiani in questi giorni. Si parla tanto di valori, si brandisce questa parola, ma poi ci si comporta ispirandosi a principi molto diversi. E poi, dice Tettamanzi, non c'è differenza tra privato e pubblico, coincidono l'aspetto privato e pubblico, soprattutto quando si hanno particolari responsabilità. Ecco la parola di Dionigi Tettamanzi, cardinale di Milano. Parallelamente, insomma, la vicenda delle escort, della nuova escort continua. Questa Nadia Macri, fotografata, oggi la trovate fotografata in modo diverso, non tanto con le foto da ex escort. Lei dice: da un anno e mezzo non faccio più la escort, ma ora faccio la ballerina e ragazza immagine in un locale notturno. Lo fa in un'intervista che ha rilasciato al quotidiano, al Carlino di Reggio Emilia. Io la ritrovo sul quotidiano nazionale. Ha fatto una sola intervista, perché poi oggi ha annunciato una conferenza stampa. Nadia Macri fa una conferenza stampa. Ieri è stata fotografata, la trovate tutta con ramazza, in felpa, con un paio di calzature tipo infradito, mentre pulisce il giardino di casa sua. Con una felpa dice: ieri ho fatto le pulizie, sono tranquilla, sono tranquilla di quello che dico, non ho fatto niente di male, ho detto solo la verità. L'unica botta terribile: sono da 5 anni che non vedo mio figlio, perché nel 2005 fu arrestata con l'accusa di maltrattamento al bambino, che all'epoca aveva un anno. Da allora gli è stato tolto ed è stato dato in affidamento a un'altra famiglia. Una botta terribile, sono 5 anni che non lo vedo. Sul giornale c'è una signora che gli diede in gestione un locale, che dice è una ballista patentata. E vabbè, ormai sono partite le doppie verità. Mentre su Repubblica, Salvo Palazzolo e Francesco Viviano pubblicano a pagina 15 il verbale del suo interrogatorio, o meglio delle sue dichiarazioni spontanee. Ad Arcore c'erano ragazze piccole di età. Fede faceva la selezione, decideva lui. Ecco l'interrogatorio della escort, che tra l'altro fa sapere, in questo interrogatorio Repubblica si lascia andare spesso a considerazioni per la quale viene ripresa dai magistrati. Per esempio, ecco, alla prima serata con Berlusconi: per me lui sbaglia parecchio, lui deve fare il presidente, non queste cose qua, cioè lui è il primo mafioso. Questo ha detto Nadia Macri, che i magistrati la interrompono e dicono: scusi, si attenga ai fatti, non faccia considerazioni. Poi è andata in Sardegna, il racconto della Sardegna, la marijuana nelle camere. A un certo punto, durante la festa, Berlusconi parla con mia madre, cioè io chiamo mia madre e le passo Berlusconi. E mia madre le dice: guardi che qui stiamo morendo di fame. E Berlusconi: signora, che posso fare per lei? E dice Nadia Macri ai magistrati: beh, mica gli poteva dire mia mamma: sono felice che mia figlia sia a dormire lì con lei. E ancora le dice: qui stiamo morendo di fame, ma tanto lei cosa fa? E Berlusconi non rispose. Ha fatto bene, ed ecco qui l'altra considerazione, mia madre a dirgli così. Berlusconi non può pagare in contanti, è un reato, ma stiamo scherzando. Io non sono d'accordo su questo fatto, lui mi ha pagato bene, però non si paga una persona per farla stare zitta. Io ragiono così e non starò zitta. Tanto che ancora i magistrati la riprendono, sembra un fiume in piena, dice non faccia considerazioni ma si attenga ai fatti, e poi racconta il rapporto sessuale con il sindaco di Parma, che ha smentito, il rapporto sessuale col ministro Brunetta, che ha smentito e viene dato fuori dalla grazia di Dio, racconta volevo essere la fidanzata di Brunetta, con lui è durato neanche un mese, l'ho visto due volte. Trovate insomma tante notizie. L'ultima invece di Perla Genovesi, che è stata arrestata nell'ambito di un'inchiesta per droga a Milano e che ha fatto un interrogatorio che ha fatto rilanciare questa vicenda della nuova presunta escort Nadia Macri, la trovate con Giovanni Bianconi a pagina 11, la pentita e le pressioni del senatore per i fondi dati al San Raffaele. È un nuovo filone che viene spiegato solo dal Corriere della Sera. Nadia Perla Genovesi avrebbe detto, da quando era assistente al senatore Pianetta, che molti fondi, visto che Pianetta era presidente della Commissione del Senato sui diritti umani dal 2001 al 2006, molti fondi, parla di miliardi di lire, sarebbero andati al San Raffaele, o meglio a Don Verzè, ma anche addirittura alla stessa dote personale di Silvio Berlusconi. Soldi dello Stato che erano utilizzati per tutte queste cose. Questo avrebbe detto in un interrogatorio Perla Genovesi. E come detto, ripeto, il clima è questo. Dal punto di vista della politica la situazione è quella che si naviga a vista in attesa di domenica Fini parla. Oggi però c'è l'ufficio di presidenza del Popolo della Libertà. Segnalo tre cose prima del traffico. Che cosa potrebbe succedere? A. Maurizio Belpietro rilancia su Libero l'idea Silvio, Lega, UDC. Sì che si può fare. Ecco come rilanciare. Convincere Umberto Bossi che ci vuole l'UDC per rafforzare la maggioranza. Per il giornale invece Berlusconi pronto a fare un nuovo partito, non gli piacerebbe più l'idea Popolo della Libertà, certo non si può tornare a Forza Italia, ma sarebbero già partiti i sondaggi affidati alla Euromedia Research della Ghisleri, che si sta già occupando della pratica. Il nuovo nome potrebbe essere non Forza Silvio, che lo stesso Berlusconi dice troppo autocelebrativo, mentre pare sia più cauto nel giudizio di Avanti Italia. Per il Foglio invece, ecco l'operazione che il Cavaliere ha in mente per legare Tremonti al PDL. Lo snodo potrebbe essere quello, cioè far riavvicinare Giulio Tremonti al partito. Tremonti avrebbe detto e sarebbe pronto a dire ci sono 6 miliardi di euro per la disponibilità per finanziare l'agenda del governo. In cambio, che cosa vorrebbe offrire Berlusconi a Tremonti? L'incarico di vicepresidente del Popolo della Libertà, ruolo che a Tremonti non dispiace. Questo si attende oggi come mossa dalla politica, staremo a vedere intanto il traffico. In primo piano. Qualche problema c'è anche per il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo. Incontri con mafiosi, indagato Lombardo, un'intera pagina sul Corriere della Sera, pagina 25, contestato il concorso esterno ieri in una serie di arresti di 48 tra mafiosi, imprenditori e politici, racconta Alfio Sciacca. Si è alzato il velo anche sulla parte di inchiesta che riguarda Raffaele Lombardo e il fratello Angelo, indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. Si parla di presunti contatti con alcuni boss della mafia, alcune intercettazioni come quello del boss di Palagonia Rosario Di Dio, che disse io ero nel movimento per le autonomie, quello di Lombardo, quello che ho fatto quando lui è salito la prima volta, neanche se viene il Padre Eterno, io ho rischiato la vita e la galera per lui, da me a 1:30 di notte è venuto ed è stato 2:30, cioè ci sarebbe questo incontro. E poi anche incontri con un uomo di cerniera tra mafia e politica che sarebbe il geologo Giovanni Barbagallo, incensurato, grande elettore del Movimento per l'Autonomia. Lombardo però si difende in un'intervista, intervistato da Felice Cavallaro, dice «Da oggi sappiamo solo che non c'è alcuna iniziativa processuale a mio carico. Quando mi sarà addebitato un fatto, un incontro, un patto, un favore chiesto o ricevuto, risponderò con chiarezza. Viceversa non resta che la strada della querela». E poi dice Lombardo, a volte comunque stringi le mani a persone che sembrano immuni. perché ci si trova di fronte a convegni. Bisogna sempre tenere gli occhi aperti, ma frequentando convegni, incontri pubblici, c'è sempre il rischio di stabilire rapporti civilissimi, seppure superficiali, con persone che ritieni immuni, come mi è capitato con l'architetto Giuseppe Liga, adesso indicato a Palermo come un boss non di basso livello, ma per me era il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, popolato da fior di galantuomini. D'altronde, ecco, questo ha detto Raffaele Lombardo. Io voglio andare sulla questione del maltempo. Io sposo in pieno, se volete, l'appello del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha detto, se volete faccio anche il mia culpa, ma anche forse i giornali, con la devastazione che è avvenuta soprattutto in Veneto, ma non solo, in gran parte d'Italia, con questi allagamenti, queste alluvioni. Non se ne parla praticamente sui giornali, o se ne parla poco rispetto a storie di escort e quant'altro. In Veneto 100 milioni di danni. Così Emanuele Scarci sul Sole 24 Ore, pagina 24, migliora il tempo ma Po a rischio esondazione, nubifragi ci sono anche in Basilicata, in Calabria. E anche il Corriere della Sera, il Veneto sott'acqua e la ricerca delle colpe. Tra l'altro è il tema del nostro sondaggio, perché vi chiediamo, secondo voi si poteva evitare la situazione con magari una maggiore tutela del territorio? Da fare non da ieri, ma magari da qualche decennio. Il Veneto sott'acqua ora cerca le colpe, e Dario Di Vico in prima pagina racconta qual è la situazione con la furia della pioggia. Ieri il presidente dell'industriale di Vicenza, Roberto Zuccato, ha dichiarato alla stampa: stiamo pagando il prezzo della cementificazione, creando anche qualche polemica all'interno degli imprenditori. Sulla Padania Marco Reguzzoni, e non è sfuggito a molti, capogruppo leghista a Montecitorio, ha scritto: in questi giorni, diversamente da quanto accade in altre zone del paese, a Varese il fiume Olona non è esondato grazie alla nostra diga di Malnate. Come dire, noi leghisti le opere le abbiamo fatte. E voi invece? E poi c'è l'appello di Luca Zaia: cari mezzi di informazione, dove siete? Perché non raccontate la tragedia del Veneto? 121 comuni coinvolti, la situazione sta lentamente tornando alla normalità per quel che riguarda autostrade, eccetera. Però la situazione di molti sfollati ancora purtroppo è seria e ci sono anche delle vittime. Tra l'altro io vi voglio segnalare, ne parleremo alle 8.30, se volete 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, se volete già segnalarci qualche situazione poi l'approfondiremo alle 8.30, ci sarà anche il sindaco di Vicenza con noi, Achille Variati. Nel Vicentino la situazione è più difficile. Ho trovato molto su Obama il giorno dopo la sconfitta. Per molti è l'apertura dei titoli, la colpa è mia, questo ha detto Obama. Vi segnalo che in prima pagina del Sole 24 Ore il direttore Gianni Riotta analizza in 8 domande alle quali dà delle risposte, che sono: qual è la peggior sconfitta per Obama nel voto di midterm, oppure perché Obama ha perso così brutalmente. È finito il sogno di Obama? Si chiede Gianni Riotta. Il sogno sì, potrebbe però cominciare la realtà di Obama. Cambiare la linea economica del presidente? Deve cambiare se vuole giocarsi qualche chance nel 2012. Ieri Obama, troppo tardi, ha dichiarato: gli elettori sono in ansia per l'economia, frustrati di non vedere progressi, ha ammesso di dover usare il tasto reset con il business in America. Insomma, un Obama che ora deve ripartire, anche ovviamente trattare soprattutto con una camera affidata ai repubblicani. Trovate molto delle analisi e vi segnalo in prima pagina del Sole, appunto, Gianni Riotta, le 8 domande e risposte sul il sognatore Barack al test di realtà. Chiudo con il calcio. Come ho detto in rassegna stampa, ce l'ho fatta, ma insomma la voce è quella che è. Ma ieri ero tra quelli a San Siro che celebravano, purtroppo con beffona finale, Pippo Real. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Ma al di là del calcio giocato, ha vinto anche la Roma, che si rilancia. Al di là del calcio giocato, tiene ancora banco la questione Cassano a Genova. Insomma, Garrone, presidente della Sampdoria, perdona Cassano o non perdona Cassano dopo lo sfogo nel quale gli avrebbe dato del vecchio di M, insulti, eccetera, in spogliatoio? Oggi il Secolo XIX va con Paolo Crecchi a sentire gli umori. Per carità, non parla a nessuno in famiglia Cassano. Cassano ha detto: bocche cucite, però qualche parola di mamma Cassano: resta qua ed è solo figlio mio. La signora Giovanna: certe cose non si dicono a nessuno, ha sbagliato, ma Antonio resta qua. E poi ha detto chi se dice che quelle cose non le ha dette, cioè il vecchio di... non le ha dette, credo a mio figlio. E poi ci sono delle espressioni in dialetto che tradotte suonano male. Comunque, parola di mamma, Cassano resta qua ed è solo figlio mio, Garrone. Lo perdonerà oppure no? Chi lo sa? Intanto Gene Gnocchi sul Gazzetta in prima pagina col suo rompipallone la vede così. Cassano le tenta tutte. Per restare alla Samp sono anche disposto a leggere un libro. Il GR 24 mattino. L'intervista. Alle 8 e 21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua per la nostra intervista di oggi. Ospitiamo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lunedì apre la conferenza, seconda conferenza nazionale sulla famiglia. C'è qualche polemica oggi sui giornali per la presenza di Silvio Berlusconi, che qualcuno giudica inopportuna. Le faccio questa domanda. Secondo lei è compatibile la presenza di Berlusconi con quello che leggiamo sui giornali, visto che si parla di famiglia, ovviamente? Beh, innanzitutto la presenza del Presidente del Consiglio è dovuta. È un atto di rispetto dovuto al lavoro dell'Osservatorio Nazionale della Famiglia, del Comitato Scientifico, di tutti coloro che per mesi hanno lavorato duramente per mettere a fuoco tutti i temi del futuro piano per la famiglia, che verrà discusso e approfondito alla conferenza, dove parleranno anche i ministri, dove tutto il mondo dell'associazionismo familiare farà il punto su tutta una serie di questioni vere, importanti, determinanti per il nostro futuro: la denatalità, l'invecchiamento della popolazione, il problema dell'integrazione, di un'immigrazione che fa fatica a integrarsi se di qui a pochi decenni non ci saranno più gli italiani, la disgregazione sociale, i problemi economici delle famiglie, insomma questioni che toccano. Ma questioni certamente decisive. Però ho sentito il presidente del forum associazioni familiari, Francesco Belletti, ha detto: siamo anche imbarazzati che la presenza di Berlusconi possa distogliere dall'attenzione vera e parlare d'altro. Belletti ha detto una cosa che io ho pubblicamente condiviso. Poiché sono temi importantissimi, ecco, e poiché c'è già chi, tipi radicali, tipo l'Arcigay, che dice verremo là non a dare un nostro contributo ma a fare polemica, ma dal loro punto di vista, perché il matrimonio per gli omosessuali, perché la fecondazione, la legge da cancellare per permettere di comprare i fattori della produzione e il problema del diritto alla vita, eccetera eccetera. E poiché si fa una grande fatica ad attirare l'attenzione dei media sui problemi veri, la preoccupazione di Belletti è che i media si interessano solo alle cose di cui si sono preoccupati di questi giorni e non però... invece che diano un giusto rilievo a queste questioni serie, però in questo modo drammatiche per il nostro paese. Sottosegretario, assolutamente condivisibile. Questo sì, però io non so se darei tutta la colpa solo ai mezzi di informazione, nel senso che voglio dire, quello che leggiamo sui giornali sulla condotta di vita sindacabile o non sindacabile non mi interessa. Scusa, il Presidente del Consiglio, non voglio dare la colpa ai giornali, dico solo che Belletti esprime una preoccupazione. Sì, la preoccupazione è che si distolga l'attenzione, che prevalgano i temi seri di cui discuteremo rispetto alle situazioni personali. Del resto, se io mi devo guardare attorno nel panorama politico italiano, se l'obiezione fosse che la situazione personale dei leader politici rispetto alla famiglia o al fatto di avere una famiglia o più famiglie o aver avuto, cose che succedono oggi statisticamente in maniera sempre più rilevante, una famiglia può essere divorziati, risposati. Sì, il problema è quello, e mi guarda attorno, sarebbe un po' tanti, però che potrebbero aprire una conferenza. Però onorevole, qui c'è una questione, le avrei lette sui giornali, adesso verificare o no, ma insomma le feste, letto, i festini, le escort, ma non c'entra assolutamente non nulla, è semplicemente un divorzio. Se parliamo di quoziente familiare o di servizi e tariffe da applicare alle famiglie con figli, o parliamo del problema di un paese che sta morendo di denatalità, non capisco bene il rapporto che c'è fra queste tematiche e quello che in questi giorni leggiamo sui giornali sullo stile di vita. Non devono entrare, sono stili di vita personali, anche se, perché oggi, guardi, il Cardinal Tettamanzi in un'intervista a Repubblica dice: non si deve scindere mai l'aspetto privato da quello pubblico, soprattutto quando si hanno particolari responsabilità. Secondo lei si possono scindere? Ma ci mancherebbe altro che il Cardinal Tettamanzi, che personalmente mi ha garantito la sua gradita presenza all'inizio della conferenza, essendo il cardinale di Milano, quindi certo. Parla il sindaco di Milano, il presidente della provincia di Milano, il presidente della regione, credo che sia giusto che ci senta anche la voce, la parola di Tettamanzi. Ci mancherebbe altro che un cardinale o un vescovo non continuasse a dire le cose che giustamente sono in sintonia con una visione delle cose che viene dal mondo cattolico. E beh, quindi voglio dire, cioè, però di Tettamanzi dice, leggendo i giornali in questi giorni, mi sembra che non c'è proprio limite, c'è l'immoralità dilagante, insomma, mi chiedo... certo, scusi, non... io, va bene, io faccio questo ragionamento, ho tutta un'ala dello schieramento politico che mi vuole imporre il matrimonio fra omosessuali, l'acquisto dei fattori della produzione... sul mercato, c'è cioè l'acquisto dell'ovulo, l'acquisto dello spermatozoide, c'è cioè l'assemblamento non uomo, donna, famiglia, bambini, no, l'assemblaggio dei fattori della produzione. Ho tutta una polemica ancora aperta, sono andato a riprendermi gli atti di personaggi oggi famosi che inneggiavano all'amore fra maggiorenni e minorenni, cioè una pedofilia sì, legalizzata. Sì, sì. Oggi Feltri lo ripete, quella di anche no, appunto, anche no ho capito, ma cosa c'entra? Uno schieramento politico che come in Spagna con Zapatero mi vuole totalmente disgregare quello stesso quadro su cui il Papa e Tettamanzi ogni giorno mi richiamano, e improvvisamente quello schieramento che contesta le scelte di questo governo che sono di difesa della Costituzione laica repubblicana. Sì. È la Costituzione che ha scritto che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Vabbè. Quindi c'è questa opposizione contesta queste atteggiamenti del Premier, diciamo. Proprio appunto, che io non discuto assolutamente che siano oggetto di polemica politica, che siano oggetto di una grande discussione. Quello che ha detto Belletti, e che io sottolineo, è che l'importanza dei temi discussi nella questa conferenza non si è offuscato al di là dell'attualità, e il Presidente del Consiglio, aprendo la conferenza, parla come Presidente del Consiglio di un governo, certo, di una maggioranza che hanno quella linea politica. Ma mi risponda, io la devo salutare, mi risponda su uno, ma lei la vita personale di Berlusconi la giudica in qualche modo, cioè ci pensa, dice secondo me esagero oppure non gliene frega niente a lei allora così. Naturalmente è sempre difficile dire a una persona di fare qualcosa, questo sì, che dentro io da amico gli direi tiene un atteggiamento diverso, attenzione, non da quello che ti addebitano, no? Perché delle ma accuse fatte poi, ragazzi, bisogna... è un atteggiamento diverso da cosa allora? Più sobrio. Più sobrio. Non ho nessuna difficoltà a dire che un atteggiamento più sobrio, diciamo meno esibito, ecco, meno esibito, sicuramente servirebbe anche di più a lui per sottolineare il fatto vero che avendo impegni giornalieri massacranti, una vita come tutti sanno, sì, per impegni internazionali di un certo tipo, l'esibizione di dei momenti in cui stacca fatti in questa maniera è controproducente. La ringrazio, buona giornata sottosegretario. Grazie. Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ci fermiamo per pubblicità e media, poi parliamo di maltempo a proposito di meteo, maltempo, il Veneto soprattutto in ginocchio, ma non solo, parte dell'Italia, tra poco. 24 mattino. Alle 8:33 minuti parliamo della situazione maltempo, in particolare nel Veneto, ma non solo. Certo, il Veneto è stato maggiormente colpito come regione nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Certo, ci sono state abbondanti piogge, ma quello che vi chiediamo noi nel nostro sondaggio è: secondo voi si poteva evitare una situazione del genere? Zaia dice 500.000 veneti in questi giorni soffrono per le conseguenze dell'alluvione. Certo, la precipitazione, ma anche, qualcuno dice, anni e decenni di incuria del territorio, di scarsa attenzione per il rispetto del territorio, poi portano a queste situazioni. Piove in maniera abbondante, magari qualche giorno, ed ecco lì che precipita la situazione in questo modo. Intanto 800 24 00 24, se volete intervenire anche dalle zone dove magari siete stati più colpiti. Voglio salutare intanto il sindaco di Vicenza, chi Achille Variati. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Vicenza e Vicentino, una delle zone davvero più colpite. Con noi ci sono anche il professor Giuseppe Zamberletti, che saluto. Buongiorno, presidente. Buongiorno. È presidente del Comitato Grandi Sismi della Protezione Civile e è anche il fondatore della Protezione Civile. E saluto anche il professor Franco Battaglia. Buongiorno, professore. Che insegna chimica ambientale a Modena, scrive sul giornale. Io, sindaco Variati, partirei da lei. Ci dica intanto in breve qual è la situazione, c'è anche una quantificazione dei danni per Vicenza. Guardi, questa mattina finalmente c'è il sole. C'è il sole che illumina una città che è divisa in due. Una parte di città è normale, una parte di città è in mezzo al fango. E in quel fango ci sono centinaia di cittadini, di ragazzi, anche giovani, che con le pale stanno dando una mano per liberare le strade, per aiutare le case che sono state inondate. Quindi un'immagine di un'Italia generosa, bella. E beh, questo però, è il Veneto operoso e la Vicenza operosa che conosciamo, il nord-est operoso che si rimbocca proprio le maniche. È insomma, così. Ecco, questo... però ci sono centinaia di negozi, di botteghe artigiane, di case, di abitazioni al piano terreno che hanno perso tutto, e spesso nelle città storiche al piano terra vi abitano le persone meno abbienti. Ora noi ci aspettiamo questa volta che lo Stato, parleremo se crede anche dei problemi idrogeologici, ma lo Stato deve, non deve essere lontano nei confronti di questi concittadini e di queste imprese, perché altrimenti diventa veramente un problema. Senta, il Corriere della Sera per oggi in prima pagina si chiede: il Veneto sott'acqua e la ricerca delle colpe, perché è vero, ha piovuto tanto. Lei si è fatta un'idea delle eventuali colpe o responsabilità? Cosa vuole? Noi sindaci siamo l'ultimo anello, no, di un meccanismo che secondo me non funziona. Guardi, nell'ambito degli aspetti delle acque e degli acquedotti ci sono almeno nel Veneto 6-7 istituzioni che hanno pezzetti di competenze, e questo non funziona. Ed è anche vero che almeno ormai da 10 anni si interviene sempre meno nella pulizia degli argini, nei fossati, nelle rogge, rendendo debole un sistema idrogeologico complesso come quello della pianura padana. E se poi ci aggiungiamo che spesso sono state fatte, forse anche con alcune responsabilità degli amministratori locali, alcune lottizzazioni in luoghi sbagliati, alcune tombinature sbagliate dal punto di vista idrogeologico, prima o dopo la natura si ribella. Io vorrei andare dal professor Zamberletti e dal professor Battaglia. Per esempio, qualcuno ha fatto notare che Marco Reguzzoni, che è il capogruppo della Lega ed è di Varese, ha fatto un articolo sulla Padania dicendo: mentre tutto esondava a Varese, per esempio, non è esondato l'Olona, il fiume Olona, perché noi abbiamo fatto la diga di Malnate. Cioè, come dire, vedete, se si fanno le cose poi i problemi magari si arginano un po'. Professor Zamberletti, lei che ne pensa di quello visto? Lei ne ha viste tante, insomma. Sì, devo dire questo: i Cuzzoni è di Varese, come sono di Varese anche gliel'ho detto apposta. Fatto per l'Olona, effettivamente ci sono stati fatti degli interventi molto interessanti e attesi anche da un parecchio tempo e finalmente realizzati. Però voglio dire una cosa: il problema delle emergenze che derivano da emergenze atmosferiche, le cosiddette catastrofi nel settore idrogeologico, necessitano non solo di grandi interventi che tutti invocano molte volte, ma molte volte molti sono stati fatti, pensi alla messa in sicurezza di fiumi. Una volta le esondazioni del Po, dell'Arno, del Tevere erano quasi, non dico l'ordine del giorno, ma quando succedevano queste cose avevamo delle tragedie enormi, ma questo non solo in Italia, ma anche in Francia, la Senna a Parigi, prima della regimentazione dell'acqua, creava dei colossali problemi. Però io vorrei richiamare l'attenzione su un problema che mi deriva dall'osservazione della tragedia di cui abbiamo perso delle vite umane, quella di Massa Carrara. In sostanza, la cultura della prevenzione non è una cultura che cala dall'alto, è una cultura che deve salire dal basso, e quando noi abbiamo costituito i gruppi comunali di protezione civile, lo abbiamo fatto per assecondare i sindaci e gli amministratori locali, che poi sono i protagonisti del governo del territorio, perché potessero avere non solo uno strumento di intervento, il sindaco di Vicenza lo ha citato, l'azione dei giovani che intervengono nel momento dell'emergenza, ma anche per avere delle strutture volontarie di monitoraggio del territorio. Che quindi intervengano prima, ecco, non dopo. Monitoraggio del territorio. Mi ricordo sempre con nostalgia che quando ero operativo, quando è nata la protezione civile, ero solito fare delle visite in Alto Adige, in Trentino, per vedere il sabato e la domenica i gruppi comunali dei vigili del fuoco. Lì c'è una grande tradizione di volontariato che oggi si è molto diffusa anche nel centro-nord del nostro paese, che il sabato, per esempio, andavano a controllare, a monitorare le condizioni del sottobosco nella montagna, per promuovere o realizzare addirittura dei micro o dei macro interventi di pulizia del sottobosco e il controllo del corso dei torrenti, perché se ostacolati da un albero caduto cambiavano la direzione e potevano provocare. Questo lei dice non c'è. Tra l'altro, con tutti i soldi spesi, qualcuno ci scrive anche via SMS: io vorrei tutti i soldi che abbiamo pagato in termini di tasse ai consorzi di bonifica in tutti questi anni. Ma a questo proposito, professor Battaglia, è piovuto così tanto oppure tre gocce d'acqua, giusto per dirla in maniera brutale, non è stato così, ci hanno messo così in ginocchio? Guarda, io credo che una grossa responsabilità di queste situazioni ce l'ha una mentalità che viene generata, che è stata generata dai cosiddetti ambientalisti e dai verdi, che per anni ha assillato il paese, in realtà il mondo intero, distogliendo di fatto l'attenzione da quelle che sono emergenze reali e concentrando l'attenzione su problemi assolutamente finti. Per dirne una, noi abbiamo detto che nel caso specifico, per esempio, si potevano mettere in opera vasche di espansione in calcestruzzo armato nelle anse dei fiumi anziché terrapieni che sono inutili, oppure, come è stato accennato, si potevano creare delle dighe di sbarramento idroelettrici che avrebbero consentito la regolazione delle portate d'acqua. Ora, fare tutte queste opere costa denaro. Orbene, a noi ci è stato detto per anni che per affrontare i problemi di cambiamenti climatici è necessario ridurre le emissioni di CO2, protocollo di Kyoto 20-20-20, e in nome di questa grossolana frottola il nostro paese, ma non soltanto il nostro paese, sta impegnando fior di quattrini, per esempio sugli impianti fotovoltaici, tanto per dirne una. Cioè dice, si fanno cose che non servono, questo è un po' il suo cavallo. No, non soltanto che non servono. Si utilizzano risorse siccome, per quello che siccome serve. Siccome solo sul fotovoltaico sono 20 miliardi, allora se un sindaco qualunque del paese impegna denaro pubblico per l'installazione di impianti fotovoltaici, poi non si può lamentare oddio abbiamo le esondazioni dei fiumi, perché non sono stati spesi il denaro nei posti dove dovevano essere. Tra l'altro io voglio ricordare il 72% per ora ci risponde era assolutamente evitabile. Voglio andare a Udine. Maurizio ci ha chiamato 800 24 00 24. No, Enrico da Padova. Maurizio è caduto, adesso lo riprendiamo. Enrico, dica. Sì. Buongiorno, dottor Milan. Dica. Due cose. Una cosa, volevo fare i complimenti perché finalmente qualcuno parla di questa immane tragedia. Dopo le escort ci siamo arrivati dopo anche le escort, noi. Ecco. Esatto. E sui giornali, sui telegiornali passa come una notizia di secondo piano. No, infatti, così non è. Ma dica. Il 5% di Vicenza è sott'acqua, Caldogna è sott'acqua. Ci sono intere famiglie, anche miei amici, che hanno perso tutto. Dopodiché, due dati. Io ho sentito che il governatore Zaia ha detto che sono caduti in due giorni 500 mm di pioggia. Nel 66 dice che ne sono caduti 190. Quindi Quindi sì, è più quasi che ci sia stata una pioggia, però rispetto al 60, quindi lei dice è stato un evento atmosferico devastante, insomma, da questo punto di vista. Io però vorrei sia dal sindaco di Vicenza sia dal professor Zamberletti una considerazione su questa. Allora, sindaco, c'è anche una polemica sulla questione l'allarme della Protezione Civile. È arrivato questo allarme? È arrivato per tempo? Alcuni comuni come a Caldogno dicono è arrivato un fax il sabato pomeriggio, dove al comune a Caldogno siamo chiusi. Ci aiuti a capire che cosa ci si aspettava di quello che è capitato. Guardi, da parte della regione e quindi da un'agenzia regionale che si chiama l'ARPAV, arrivano in questi casi delle informazioni ai comuni, solo che l'informazione che è giunta, ma io non lo dico per polemica, ci sono tutti i documenti, l'informazione che è giunta a noi sindaci è giunta sabato nel pomeriggio dicendo attenzione, pioverà per un'intensità attorno ai 150 ml, c'è una criticità idrogeologica moderata, siate allertati. Moderata, e quindi voglio dire è una indicazione che arriva ai sindaci di attenzione, non di allarme. E l'altro fax arriverà lunedì agli inizi del pomeriggio, siamo al 1° novembre, quando praticamente l'esondazione è già avvenuta, e dice state attenti perché adesso l'attenzione deve essere elevata. Quindi c'è qualcosa in questi meccanismi che non funziona. Per carità, noi abbiamo un protocollo comunale che ci siamo autodati, per cui già nella serata e nella notte di domenica avevamo un'allerta, abbiamo mandato in giro le macchine della polizia locale con gli altoparlanti dicendo attenzione, pericolo di esondazione. Ma lei dice, tutto ciò non è sufficiente, non è dobbiamo sufficiente. Affinare queste cose, perché in effetti una parte di danni, l'esondazione non c'era niente da fare, perché noi non abbiamo nessun strumento per bloccarla, solo una prevenzione la può bloccare per il futuro. Ma anche su questo campo c'è da fare qualcosa molto. Da affinare, i sindaci devono essere aiutati. Voglio chiederlo, ma dopo le informazioni sul traffico al professor Zamberletti, che poi so ci deve lasciare qualche minuto prima, il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, professor Zamberletti, chiedo a lei, secondo lei c'è stata una catena di reazione tutta corretta o qualcosa si è inceppato dal suo punto di vista, dall'alto della sua esperienza in quello che è successo? Ma guardi, io devo dire che ormai il sistema di controllo meteorologico nel nostro paese, che un tempo era solo centralizzato, il nostro è un paese che ha un'orografia complessa, quindi le previsioni spesso ci sono microclimi nelle vallate, in certe zone, quindi per oggi ha fatto dei grandi passi avanti. E certo, l'allarme meteorologico è sempre qualcosa che lascia uno spazio di incertezza, no? Sullo sviluppo del fenomeno. Io insisto nel dire, noi abbiamo fatto dei grossi passi avanti, oggi il sistema del monitoraggio meteorologico è molto avanzato e anche si è sviluppato nelle regioni. Il Veneto è una regione avanzata, le regioni del nord soprattutto hanno dei sistemi integrati col sistema nazionale molto, molto, molto evoluti. Insisto nel dire però che la prevenzione, che è il risultato della crescita dal basso di una sensibilità, di un monitoraggio del territorio. Il sindaco faceva riferimento di Vicenza, giustamente, ad alcune opere che possono essere state eseguite non con attenzione. Ecco, questo monitoraggio può consentire di dare al sindaco, agli amministratori locali, quello dei gruppi volontari di protezione civile, della struttura della protezione civile, una serie anche di indicazioni, di allerta che riguardano la prevenzione, perché se nel settore del distretto idrogeologico, delle crisi idrogeologiche o delle alluvioni, Non c'è dubbio che la prevenzione è alla base di capire quello che succede, certo. Io, professor Battaglia, sa che lei quando interviene da noi scatena sempre delle reazioni, ci piace anche per questo, no? Molti ci dicono, dite per esempio al professor Battaglia che proprio per l'effetto serra che lui contesta magari queste precipitazioni sono, no, sono più abbondanti e causano problemi, invece di negare sempre i problemi. Ma non è vero, i paesi che sono sott'acqua sono quelli che ho detto, come ho detto prima, che non hanno messo in opera vasche di espansione in calcestruzzo armato, sono cose che gli ingegneri conoscono benissimo, bisogna far intervenire gli ingegneri e i geologi e mettere. Ma i geologi parte... sono da decenni che dicono le stesse cose inascoltate. E i soldi dove sono andati a finire? Cioè i miliardi? I soldi finiscono, gliel'ho già detto prima, finché noi pensiamo di, è come dire che nevica in montagna per proteggere una costruzione dalla neve, anziché fare i tetti spioventi facciamo o cerchiamo di spendere denaro per evitare che nevichi. Questo è quello che si sta cercando. Vabbè, non è colpa del fotovoltaico, cioè non è che... No, lo è colpa, perché gli ho già detto, il fotovoltaico stiamo spendendo 20 miliardi di euro su niente, mentre abbiamo dei provvedimenti necessari da prendere sulla cura del territorio. Il pozzo non è infinito, di questo dobbiamo rendercene conto. Se noi pensiamo di proteggerci dal clima installando parchi fotovoltaici, stiamo sbagliando. E poi ci saranno le piene. Franco dalla provincia di Vicenza, buongiorno, lei in che zona è? Io sono nella zona di Bassano, per fortuna non abbiamo avuto problemi. Anche se devo dire che noi veneti ci dobbiamo far furbi, la prossima volta mettiamo il nome alle perturbazioni come gli americani, se la chiamavamo Ruby ne avrebbe parlato tutta Italia per una come settimana. Come la no? Chiamare Ruby? Questa non è male, l'uragano Ruby, va bene. Detto questo, io credo che una delle responsabilità delle amministrazioni locali è quella di avere assoggettato il territorio a due parole, riqualificazione e valorizzazione, cioè uguale cementificazione, perché questo porta oneri economici. Oh, questo è interessante, Franco. Caro sindaco Variati, vi faccio la domanda, lei potrei farla ai 5.000 sindaci d'Italia rotti. Cioè, l'accusa di molti è dire la troppa cementificazione, gli oneri finanziari, insomma, che guadagnano i comuni anche con le licenze che vengono concesse. Questo, secondo lei, è un problema sul quale bisognerebbe anche un po' fare un mea culpa generale degli amministratori? Innanzitutto, mi scusi, volevo replicare al professor Battaglia che è vero che questa delle esondazioni, dell'aspetto idrogeologico è certamente un capitolo importantissimo per il nostro paese, anche per come è la orografia del nostro paese, però attenzione, io ad esempio sono sindaco di una città, qui siamo nella locomotiva, no? D'Italia e del Nord-Est, qua si produce, qua nascono e muoiono più aziende che bambini, eccetera. Però in una zona di scarsa ventilazione come è la pianura padana, nella mia città supero abbondantissimamente i limiti per le polveri sottili prodotte dagli aspetti industriali, dal sistema automobilistico che in questi anni, parlo esplicitamente ad esempio della Fiat, non ha secondo me investito a sufficienza sulle macchine ibride, sui sistemi elettrici. Io ho un'automobile, non dico il titolo per la marca, per non fare della pubblicità, però è una macchina ibrida che quando si ferma ad un semaforo non consuma più... Sì. Vabbè, diciamo questo è il problema più globale, quindi, sindaco. Quindi attenzione, perché alcuni investimenti anche nel campo fotovoltaico sono il segno di una civiltà indispensabile. Poi comunque ormai i sindaci, mi scusi, i comuni sono talmente squattrinati che ormai capacità di interventi infrastrutturali non li hanno proprio più. E questo fatto che i comuni sono squattrinati rappresenta un pericolo, e mi spiego perché. Appunto. Perché spesso un sindaco, non avendo, avendo tutte le briglie che sono state poste all'autonomia, sia per i comuni virtuosi sia per i comuni non virtuosi, deve fare cassa. Allora hai dei sindaci tra virgolette illuminati che guardano lontano e che invece di pensare ad un consenso personale dell'immediato continuano a fare delle operazioni intelligenti nelle loro città, altri che si lasciano andare. Sindaco, io devo chiudere, ma lei mi dica, le dà fastidio il fatto che si parli di escort e non di questo, soprattutto sui giornali? Sa che cosa mi dà fastidio soprattutto? Quando in alcuni giornali o anche in alcuni telegiornali e radiogiornali, dopo aver raccontato di queste cose, si dice adesso passiamo alla politica, come se la pagina politica fosse una cosa diversa rispetto ai problemi dei cittadini. Mi fermo qui ringraziando il sindaco di Vicenza, grazie a Achille Variati del Partito Democratico, non l'ho neanche detto e me ne scuso, ma rimedio ora, il professor Franco Battaglia e il professor Giuseppe Zamberletti, il fondatore della Protezione Civile, al quale sempre arrivano messaggi ancora adesso di ringraziamenti dal Friuli, soprattutto da terremotati del Friuli, e che giro al professor Zamberletti. Grazie a tutti, Valeria Coffaro in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina.